cercavo una buona notizia con la quale chiudere su una nota non troppo tetra questo ciclo delle nostre conversazioni. E ho finito col ripiegare con qualche incertezza su un ritaglio del Manifesto di martedì 25 maggio ultimo scorso, un ritaglio che da un paio di settimane staziona sulla mia scrivania. Vi si informa, succintamente, che a Vinci, in provincia di Firenze, che suppongo sia il luogo di nascita del grande Leonardo, è stato inaugurato da poco il Parco dell'Amore. Il municipio, cioè, ha provveduto ad attrezzare un'area sterrata dove le copiette, ci si assicura, potranno trovare un poco di comoda intimità. La denominazione non è esattamente ufficiale, è stata attribuita a furore di popolo, ma sembra che in comune per questa volta non abbiano niente da eccepire. Non avevamo pensato di chiamarlo in questo modo, scherza il sindaco di Essino Giancarlo Faenzi, ma oramai il messaggio è passato e a noi va bene. Beh, ammetterete che come notizia questa sembra abbastanza buona. Per chi ricorda con nostalgia gli anni in cui slogan e manifesti esortavano non sempre con successo a fare l'amore e non la guerra, il fatto che di questi tempi bellicosi un'amministrazione comunale si preoccupi, nonostante i problemi di bilancio, delle necessità affettive dei concittadini, che come noto non sempre per un motivo o per l'altro possono amoreggiare liberamente a casa propria, indica un'insolita ampiezza di vedute e un'attenzione davvero rara ai bisogni della popolazione residente. Un tempo, ricorderete, l'unica preoccupazione in materia delle autorità era quella di impedire, dislocando se del caso i vigili urbani, ogni indebita utilizzazione del territorio. Forse abbiamo fatto da pensare con un poco di invidia, perché è difficile qui a Milano aspettarsi analoghe iniziative dalla giunta in carica, forse i tempi stanno veramente cambiando. E basta così poco, d'altronde, per assicurare un ambiente adeguato a quelle specifiche necessità. Se è un parco vuol dire che ci sono già degli alberi, avranno aggiunto qualche cespuglio, dei roseti magari, per ricavare i classici angolini appartati, qualche aiola fiorita perché l'occhio vuole la sua parte, morbidi prati e parecchie panchine di quelle comode, una o due cascatelle artificiali per garantire un amichevole sottofondo sonoro, un paio di mangiatoie sospese per attirare gli usignoli e altri pennuti canori cari agli innamorati, e che altro serve? Al massimo, ma proprio al massimo, un discreto servizio di sorveglianza all'ingresso per proteggere gli ospiti da possibili malintenzionati, ma senza turbarne l'intimità. Le incertezze di cui vi facevo cenno derivano dal fatto che in realtà nulla del genere a Vinci è stato realizzato. Il Parco dell'Amore consiste, sempre a dire del sindaco, di un'area vicino al campo sportivo, che già prima da anni era utilizzata dalle coppie per i loro incontri. Era un'area degradata, ma adesso l'hanno asfaltata e arredata. Ne è risultato un parcheggio di 172 posti sulla provinciale tra Empoli e Vinci, accanto allo stadio, in località Petroio, in una zona agricola da sempre meta di amanti che, in mancanza di una casa a disposizione, cercano in periferia sull'auto un momento di intimità, soprattutto la sera. L'arredo, si scopre, è costituito essenzialmente da lampioni bassi, cestini per i profilattici e i fazzoletti, e la notte come alleata. Già tra un parco e un parcheggio, nonostante l'etimologia comune, la differenza non è da poco. Se ci aggiungiamo i 172 posti auto asfaltati, i lampioni e i cestini per i profilattici, non si direbbe che il passaggio da area agricola a terreno attrezzato sia stato per gli innamorati della zona quel gran passo avanti. Fare l'amore in auto è sempre stata l'ultima razio per le coppie bisognose, la penultima, considerando i problemi di chi la macchina nemmeno ce l'ha, e l'idea di operare su uno spiazzo asfaltato all'unisono con 342 confratelli non sembra, nonostante tutto, particolarmente confortante. Da un certo punto di vista, ricorrendo, se mi permettete, a un'altra categoria un po' fuori moda, la si potrebbe considerare la quintessenza dell'alienazione. D'altra parte, D'altra parte il bisogno, e non sempre chi vi soggiace può permettersi di essere sofistico nella scelta dei mezzi con cui soddisfarlo. Non potendo disporre di un parco, ci si può accontentare talvolta di un parcheggio. L'amore del resto è un'attività piuttosto coinvolgente, e due amanti finalmente soli vivono in un universo particolare in cui la presenza di altre 171 macchine può passare del tutto inavvertita. Volendo, ci si può accontentare. Ma appunto volendo. Vedete, io non so se a Vinci siano previste le elezioni municipali e in ogni caso quell'area è fuori dalla nostra portata, per cui non corriamo il rischio di impicciarci indebitamente in problemi che non sono nostri. Ma certo, se le elezioni ci fossero, il tema potrebbe essere al centro di un bel dibattito corposo sui limiti e le funzioni del riformismo. A chi respingesse la prospettiva del parcheggio in nome, mettiamo, della dignità e dell'importanza dell'atto amoroso, potrebbero contrapporsi quanti fanno notare come in fondo sia meglio abbassare le pretese che rinunciare del tutto all'obiettivo. E a costoro naturalmente si potrebbe obiettare che tanta acquiescenza finisce col tarpare le ali a chi si pone delle aspirazioni più alte. E così via. L'eterna contesa tra il vogliamo tutto e portiamo perlomeno a casa qualcosa potrebbe colorirsi così di sfumature inedite, investendo campi d'applicazione finalmente diversi dai consueti. Insomma, la nostra buona notizia si è risolta prima ancora di essere valutata per tale in un motivo di dibattito. Non so a voi, ma a me succede sempre così. D'altronde, se no, che divertimento ci sarebbe?